We're bringing Democrats, Independents, Republicans. E ancora una volta Barack Obama, il trionfatore delle primarie. Il senatore afroamericano inanella un nuovo tris di vittorie su Hillary Clinton, bissando il successo del weekend, e continua col vento in poppa la sua traversata verso la nomination. Per la Clinton, ieri in Texas e a distanza di sicurezza dalla disfatta, resta l'ultimo argine degli appuntamenti di marzo e aprile, quando alle urne andranno stati pesanti come lo stesso Texas, l'Ohio e la Pennsylvania. Nelle primarie della scorsa notte Obama ha trionfato in Virginia, dove ha quasi bissato l'ex First Lady attestandosi oltre il 60%. Non solo, il senatore afroamericano ha sconfitto la Clinton anche nel voto di donne ispanici, che fino a ieri avevano costituito il nocciolo duro della sua base elettorale. Obama si è imposto anche in Maryland e ha letteralmente stracciato la Clinton a Washington. In casa repubblicana invece, nonostante i giochi siano praticamente fatti, la serata si è aperta con una sorpresa: l'iniziale vantaggio di Mike Huckabee su John McCain in Virginia, che poi ha recuperato imponendosi con un margine risicato. Un campanello d'allarme per McCain, che non riesce ad attirare tutti i voti dell'ormai ritirato Romney. Il veterano di guerra si è imposto invece più nettamente nel Maryland, che ha chiuso i seggi in ritardo a causa delle pessime condizioni climatiche, e a Washington. Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore.